Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto. Ci ritroviamo, come ogni lunedì, per riflettere insieme alla luce di questo appuntamento con la parola di Dio. Il nostro appuntamento ha come titolo «La tua parola ci fa vivere». E l'obiettivo è proprio quello di andare dentro le pagine della scrittura e attraverso dei percorsi di lectio continua far emergere la vitalità della parola. Quest'oggi però è un giorno un po' particolare. Per la prima volta la Chiesa celebra la festa di Maria Madre della Chiesa. E quindi mi sembrava bello condividere insieme a voi in questo pomeriggio una riflessione di carattere mariano, quindi interrompere la nostra lettura continua degli Atti degli Apostoli per riflettere sulla figura di Maria nel Nuovo Testamento. Ecco, io sono convinto che le diverse menzioni di Maria all'interno delle pagine del Nuovo Testamento possano essere tutte racchiuse attorno ad un'immagine biblica importantissima che può offrirci proprio la chiave di lettura della festa di oggi, di questo 21 maggio dedicato a Maria, Madre della Chiesa. E l'immagine biblica di riferimento è quella dell'Arca dell'Alleanza. Cioè mi sembra che quando noi ripercorriamo tutti i passaggi mariani del Nuovo Testamento, quindi le pagine dedicate ai Vangeli dell'infanzia, nel Vangelo di Matteo e di Luca, le due ricorrenze mariane del Vangelo di Giovanni, all'inizio dell'ora di Dio con le nozze di Cana e ai piedi della croce quando quest'ora giunge a compimento, come pure la menzione di Maria negli Atti degli Apostoli in mezzo alla comunità cristiana delle origini, e ancora la menzione paolina di Maria come donna al capitolo 4 della lettera ai Galati. Bene, tutte queste menzioni possono essere racchiuse, raccolte attorno all'immagine dell'Arca dell'Alleanza. Quindi la trasmissione di oggi vuole un pochino mostrare come questa immagine, che è un'immagine antico-testamentaria, non solo faccia da filo rosso che intreccia e unisce tutte le menzioni mariane del Nuovo Testamento, ma offra anche una chiave di lettura molto particolare e direi anche privilegiata per comprendere la festa di oggi. Ecco, su questa festa abbiamo già avuto modo oggi di sentire diversi commenti. Ecco, il nostro vuole essere un contributo di carattere biblico radicato all'interno delle pagine della scrittura per mostrare come in filigrana l'immagine dell'Arca dell'Alleanza può offrire una luce particolare su questa icona di Maria, Madre della Chiesa. Bene, ripercorreremo insieme durante il tempo che condivideremo, ripercorreremo insieme almeno 7 indizi che collegano l'Arca dell'Alleanza a Maria, facendo un po' un via vai tra le pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento, mostrando in questo senso anche l'unità che esiste tra i due testamenti. Ecco, prima di entrare nel nostro argomento, mi permetto però di chiedere insieme a voi il dono dello Spirito, perché lo Spirito possa illuminare questo nostro momento di ascolto della parola e di ascolto vicendevole, e nello stesso tempo anche invitare chi di voi è nella possibilità di farlo, di prendere tra le mani un'edizione della Bibbia. In questo caso serve proprio la Bibbia. Quindi chi non viaggia, chi è proprio nella possibilità di farlo, di sostare un attimo insieme alla parola di Dio, di prendere un'edizione della Bibbia per aprirla e sfogliarla pian piano laddove indicheremo, cioè in quei brani dell'Antico e del Nuovo Testamento che possono essere presi come elemento di riferimento per il tema che oggi vogliamo approfondire. Dicevo che il collegamento tra Maria e l'Arca dell'Alleanza porta almeno a sette elementi di unità tra i due aspetti. Cominciamo dal primo. Allora, fin dall'inizio l'Arca dell'Alleanza, fin dall'inizio della storia di Israele, l'Arca dell'Alleanza occupa uno spazio considerevole all'interno del racconto dell'Esodo. Pensate che per ben 15 capitoli, vale a dire dal capitolo 25 del libro dell'Esodo fino al capitolo 40, quindi uno spazio molto esteso, è quasi certamente più di un terzo dell'intero libro, ben 15 capitoli sono centrati su come costruire l'arca. È interessante che 6 capitoli, dal 15 al 21, sono dedicati alla sua alla progettazione, 6 capitoli sono dedicati alla realizzazione di questo progetto e in mezzo ci sono 3 capitoli sulla costruzione del vitello d'oro. Vale a dire, nei capitoli dal 25 al 40 dell'Esodo, Dio dice a Mosè come costruire l'arca, lo aiuta a realizzarlo, ma fin dall'inizio il popolo cade nel tranello per eccellenza, che è quello di costruire un antagonista all'arca. E l'antagonista è il vitello d'oro, che ha poi tutta una serie di elementi che si pongono in antagonismo proprio all'immagine, al segno dell'arca dell'alleanza. Ora, in questa costruzione ci sono degli obiettivi ben precisi. Appena viene conclusa l'alleanza fra Dio e il popolo di Israele al monte Sinai, il Signore dà quest'ordine: essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Cioè, fin dall'inizio è ben chiarito qual è lo scopo e qual è l'obiettivo dell'Arca dell'Alleanza. L'Arca dell'Alleanza ha come obiettivo quello di offrire a Israele il segno concreto della presenza di Dio in mezzo al popolo. Ora, tutto questo viene ribadito ogni volta che ogni volta che si parla di questo simbolo per il popolo di Israele, no? Ogni volta che si narra o della costruzione, sempre è sottolineato questo aspetto. Dentro l'arca verranno poi custodite le 10 parole date da Dio a Mosè sul Sinai, che sono testimonianze e documento base che regola l'alleanza. Questo è ribadito sia nel libro dell'Esodo sia nel libro del Deuteronomio. E in questo modo l'arca diventa il segno sensibile della presenza di Dio in mezzo al popolo. Nel libro del Levitico, al capitolo 26, leggiamo: stabilirò la mia dimora presso di voi, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Cosa notiamo in tutto questo? Notiamo che la costruzione dell'Arca dell'Alleanza ha come primo e preciso obiettivo il fatto di assicurare la presenza di Dio in mezzo al popolo. L'Arca dell'Alleanza è, in altre parole, il segno del Dio con noi. Ora proviamo a pensare ai racconti dell'infanzia. Qual è la prima dicitura di Gesù? Qual è il primo nome che di Gesù viene dato nelle pagine del Nuovo Testamento? Il primo nome è quello che noi troviamo nel Vangelo dell'infanzia di Matteo, quando la Vergine che deve partorire il figlio gli dovrà porre un nome preciso. E questo nome, che è menzionato solo all'interno del Vangelo di Matteo, è proprio il nome di Emanuele, Dio con noi. E allora notiamo subito questa prima grande assonanza tra Maria e l'Arca dell'Alleanza. Come l'Arca dell'Alleanza è segno della presenza di Dio in mezzo al popolo, così la prima entrata in scena di Maria nel Vangelo di Matteo è proprio caratterizzata da questa immagine. Maria entra in scena come colei che è l'arca dell'alleanza, colei che porta l'Emmanuele, il Dio con noi. Ma c'è di più: se noi apriamo la prima pagina del Vangelo di Matteo, notiamo che Maria viene presentata all'interno della genealogia di Matteo in compagnia di altre figure femminili. La prima pagina del Vangelo di Matteo è la famosa genealogia. Ecco, in questa genealogia c'è un elenco di nomi che inizialmente appare caotico, ma poi si rivela ordinato dallo Spirito di Dio, dalla logica che presiede la storia della salvezza, e notiamo che questo elenco apparentemente disordinato di nomi viene ricomposto attorno al numero 14. E questo numero 14 è l'elemento che regola le diverse parti della narrazione di questa prima pagina introduttiva di Matteo. Maria, tra l'altro, si trova in compagnia di altre figure femminili, come la figura di Rahab, di Tamar, della moglie di Uria Littita, eccetera, figure che sembravano ai margini della storia, sembravano escluse dalla storia. Pensiamo a una moabita come Ruth, a una straniera come Tamar, alla moglie di Uria Littita. Sono tutte figure che dovevano apparire in margini, ma che hanno avuto però un ruolo incisivo nella storia della salvezza. Ecco, Maria si pone in questa storia, quindi colei che entra all'interno della storia, entra nella compagnia degli uomini, portando il segno del Dio con noi. Proprio come queste donne che hanno inciso sulla storia di Israele, non per la giustizia degli uomini che stanno sul loro sfondo, ma perché si sono appellate a Dio e grazie al contributo di Dio hanno inciso sulla storia del popolo, mostrando come il Dio con noi è un Dio che può riscattare la storia da tutte le sue ombre. Ecco allora quindi il primo indizio significativo: Maria e l'Arca dell'Alleanza si trovano ad essere accostati tra di loro grazie al Dio con noi. Come l'arca era segno della presenza di Dio in mezzo al popolo, così Maria entra in scena nelle pagine del Nuovo Testamento come la madre dell'Emmanuele, la madre del Dio con noi. Ecco, lasciamo un breve stacco musicale proprio tra un indizio e l'altro, in modo che ciascuno ha modo di riprendere le pagine in cui ci sono queste menzioni e magari fare un momento di interiorizzazione, un momento di rilettura di queste pagine, che in questo caso coincidono con il capitolo 25 del libro dell'Esodo e con il capitolo 1 del Vangelo di Matteo. Quindi il primo indizio di vicinanza tra l'Arca dell'Alleanza e Maria, Madre della Chiesa, è quella che associa entrambi al Dio con noi, al Dio presente nella storia dell'uomo. Un breve stacco musicale. Stiamo percorrendo i diversi punti di contatto che permettono di associare l'immagine antico testamentaria dell'Arca dell'Alleanza a Maria Madre della Chiesa nella festività che oggi la Chiesa celebra. Bene, il secondo elemento di unione dopo quello della presenza del Dio con noi è l'elemento della nube. Una caratteristica che accompagna l'Arca dell'Alleanza è il fatto che dopo la sua costruzione l'elemento che l'Arca dell'Alleanza viene benedetta dal Signore è quella della nube. Allora andiamo al capitolo 40 del libro dell'Esodo, nei versetti 34-35. Ci viene detto: allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube sostava su di essa, e la gloria del Signore riempiva la dimora. In altre parole, la presenza della gloria del Signore all'interno della nube rende l'arca il ruolo il luogo della sua manifestazione. Elemento che poi noi troviamo anche in altri passaggi. Pensiamo al capitolo primo, al capitolo ottavo del primo libro dei Re, dai versetti da 10 a 12, che ci ricordano come Dio prende possesso del Tempio dopo che Salomone ha costruito il Tempio. Appena i sacerdoti, dice il testo, furono usciti dal santuario, la nube riempì il Tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il Tempio del Signore. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno». Il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele. Detto in altre parole, il segno che Dio è presente nell'arca dell'alleanza è rappresentato da questa nube che avvolge l'arca dell'alleanza. Questa nube è segno di quella presenza di Dio che sarà anche la presenza che accompagnerà il popolo lungo la sua itineranza. Quando noi andiamo a leggere un altro Vangelo, quindi passiamo dal Vangelo di Matteo al Vangelo di Luca e andiamo a leggere il brano dell'Annunciazione, notiamo che l'immagine della nube torna, cioè è lo stesso elemento che noi abbiamo trovato nella descrizione dell'Arca dell'Alleanza, notiamo che riappare, riemerge in un altro racconto, cioè nel racconto dell'annuncio della nascita di Gesù. Allora, il brano dell'Annunciazione dice come al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, entrando da Maria disse: «Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo, ma l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù». E dopo la promessa Maria chiede: «Come avverrà questo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio». Ecco, ti coprirà con la sua ombra. L'immagine è vista come un riferimento chiaro al capitolo 40 del libro dell'Esodo, dove Mosè non poteva entrare nella tenda del convegno perché la nube la ricopriva come un'ombra e la gloria del Signore riempiva la dimora. È un'immagine che tenta di esprimere la presenza eccezionale di Dio. Ora, la stessa immagine della nube, noi la ritroveremo anche in un'altra scena, che è la scena della trasfigurazione, cioè laddove c'è la nube che entra in scena, è proprio il segno forte della presenza di Dio all'interno della narrazione. Tra l'altro, vedremo, il segno della nube è quella anche che accompagna tutta l'itineranza del popolo di Israele, no? Durante il viaggio verso la terra promessa. Ora, questo elemento è molto forte nel racconto dell'Annunciazione. Quindi, noi notiamo che indirettamente, attraverso questo segno, Maria viene riconfermata non solo come il luogo che rende possibile la presenza di Dio, ma come la prova della sua incarnazione, che praticamente apre l'accesso alla santità divina da parte di tutti i suoi figli, perché nel momento in cui Dio si fa carne, la carne dell'uomo, ogni uomo può accedere alla santità di Dio. Quello che per noi è importante però è cogliere soprattutto questo secondo indizio. Il secondo indizio che associa l'arca dell'alleanza a Maria è il segno della nube che avvolge Maria. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ecco, questo è il segno che la presenza di Dio, come aveva abitato l'arca dell'alleanza, ora avvolge e abita il grembo di Maria. Quindi un secondo elemento che permette di associare queste due immagini. Lasciamo ancora un breve stacco musicale, mentre invito quanti sono in ascolto a rileggere questi due passaggi. Quindi il passaggio di Luca 1, 26 seguenti, che corrisponde al momento in cui Maria riceve l'annuncio, e 1 Re 8, 10, 12, cioè la narrazione della discesa della nube nel Santo dei Santi del Tempio, o ancora il capitolo 40, nei versetti 34-35 del libro dell'Esodo, dove viene proprio descritto come la nube si posa sull'arca dell'alleanza. Quindi un altro breve stacco musicale, prima poi di percorrere insieme il terzo indizio che lega Maria Madre della Chiesa con l'immagine dell'arca dell'alleanza. Bene, cari ascoltatori, il nostro racconto prosegue. Stiamo cercando di mettere a fuoco i diversi elementi che possono collegare le menzioni di Maria all'interno del Nuovo Testamento e ci sembra di individuare nell'immagine antico testamentaria dell'Arca dell'Alleanza l'unico riferimento chiave che ben si accosta alla festività che oggi celebriamo di Maria Madre della Chiesa. Quindi i primi due elementi li abbiamo già visti, come l'arca dell'alleanza è il segno del Dio con noi, così Maria deve dare come nome nel Vangelo di Matteo la prima menzione a suo figlio Emanuele, Dio con noi, come l'arca dell'alleanza è custode della presenza di Dio nell'immagine della nube, così Maria nell'Annunciazione viene avvolta dallo Spirito Santo come se fosse un'ombra, come se fosse una nube. Il terzo elemento che associa i due racconti è il viaggio dell'Arca dell'Alleanza, sì, perché nell'Antico Testamento non solo 15 capitoli sono dedicati alla narrazione della costruzione dell'Arca, quindi uno spazio molto esteso della narrazione, ma diversi capitoli sono dedicati ai viaggi dell'Arca e sono, come dire, distinti in diversi brani, perché ovviamente da quando l'arca viene costruita nel libro dell'Esodo in tutta la sua itineranza fino a quando l'arca viene deposta nel tempio costruito da Salomone, ecco, tutta questa itineranza è ben descritta all'interno dei libri biblici. La cosa più interessante è notare cosa succede all'arca nelle prime vicende narrate nel primo libro di Samuele. Nel primo libro di Samuele noi notare cosa succede all'arca nelle prime vicende narrate nel primo libro di Samuele. Nel primo libro di Samuele noi assistiamo durante la giudicatura di Israele, mentre era sacerdote del Tempio di Dio di Silo, notiamo che l'arca dell'alleanza è uno strumento che viene portato da Israele in guerra per assicurarsi la guerra. Però a un certo punto sembra che Dio abbandoni il suo popolo. Quest'uso magico dell'arca dell'alleanza, che non è accompagnato da una vita fedele alla Torah, porta Dio ad abbandonare il popolo di Israele. E allora vediamo che al capitolo 4 del primo libro di Samuele l'arca viene catturata dai Filistei. Catturata dai Filistei, comincia a fare tutta una sorta di peregrinazione da una città all'altra dei paesi filistei. E in questi racconti notiamo che succede un pochino di tutto per quest'arca che passa da una città all'altra. Al capitolo 5 del primo libro di Samuele viene narrato questo episodio molto significativo. I farisei, catturata l'arca di Dio, la portarono da Ebenezer ad Ashdod. I Filistei poi presero l'arca di Dio, la introdussero nel tempio di Dagon e la collocarono a fianco di Dagon. Il giorno dopo i cittadini di Ashdod si alzarono ed ecco che Dagon era caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. Essi presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Si alzarono il giorno dopo di buon mattino ed ecco che Dagon era caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore, mentre la testa di Dagon e le palme delle mani giacevano staccate sulla soglia. Il resto di Dagon era intero. Per questo i sacerdoti di Dagon e quanti entravano nel tempio di Dagon ad Ashdod non calpestano la soglia di Dagon ancora oggi. Notiamo che l'arca viene portata nel tempio pagano e la divinità pagana viene o spezzata o è prostrata a terra a motivo della presenza del Signore dei Signori, a motivo della presenza di Dio. Non solo, visto che si verifica questo, i Filistei decidono di spostare l'arca in un'altra città e ne succedono di tutti i colori. Allora incominciò a pesare la mano del Signore sugli abitanti di Ashdod, li devastò e li colpì con bubboni, Ashdod e il suo territorio. I cittadini di Ashdod, vedendo che le cose si mettevano in tal modo, dissero: «Non rimanga con noi l'arca del Dio di Israele, perché la sua mano è dura contro di noi e contro Dagon, nostro Dio». Allora, fatti radunare presso di loro tutti i principi dei Filistei, dissero: «Che dobbiamo fare dell'arca del Dio di Israele?» Risposero: «Si porti a Gat l'arca di Dio». Quindi, visto che dove viene portata l'arca si creano dei mali, quest'arca fa il giro praticamente della pentapoli dei Filistei. Va prima ad Ashdod, poi a Gat, poi a Ekron. Però dovunque si reca l'arca di Dio, essendo ospite di un paese pagano, succede che, e quindi non essendo oggetto della giusta, del giusto rispetto, della giusta venerazione, del riconoscimento dell'unico Dio, succedono mali di diverso tipo. In alcuni casi ci sono i topi che infestano la città, in altri casi c'è una specie di pestilenza con bubboni che colpisce gli abitanti della città, in un altro caso un terrore invade gli abitanti della città al punto tale che nessuno ha più la pace nel cuore, insomma tanti mali, finché alla fine decidono di rimandare l'arca di Dio al mittente, ma lo fanno in un modo strano, compiono tutto un rito che viene narrato al capitolo 6 del primo libro di Samuele, quando mettono l'arca di Dio su un carro. A questo carro, il carro viene tirato da praticamente una mucca che viene privata dei suoi piccoli, e la sfida che lanciano è questo: se nonostante senta muggire i suoi piccoli la mucca non torna indietro ma va nel territorio degli israeliti, vuol dire che l'arca è il luogo della presenza di Dio, è il luogo in cui Dio si manifesta. E succede proprio così che l'arca avviata nel territorio di Beth Shemesh avviene proprio così. Le mucche, dice il testo, andarono diritte per la strada di Beth Shemesh, percorrendo sicura una sola via e muggendo, ma non piegarono né a destra né a sinistra. I principi dei Filistei le seguirono sino ai confini con Beth Shemesh. E gli abitanti di Beth Shemesh stavano facendo la mietitura del grano nella pianura, alzando gli occhi scorsero l'arca ed esultarono a quella vista. Quindi alla fine l'arca viene restituita al popolo di Israele, ma nello stesso tempo bisogna anche stare attenti a custodire l'arca, perché non basta riceverla, bisogna anche trattarla con un certo rispetto. Tanto vero che alla fine l'arca viene portata a Kiriat Yearim, nella casa di Abinadab, sulla collina, e resterà lì per ben 20 anni, sulla collina di Kiriat Yearim. Ancora oggi chi va pellegrino in Terra Santa, o in arrivo dall'aeroporto o sulla via del ritorno tra Gerusalemme e l'aeroporto di Tel Aviv, può fare questa sosta. Il santuario di Kiriat Yearim è un luogo ben conservato ed è un'altura da cui già si intravede la città di Gerusalemme E quindi è chiamato anche il Monte della Gioia, perché i crociati, quando arrivavano a questo punto, esultavano di gioia come davanti all'arca, perché intravedevano le alture della città santa per la prima volta, intravedevano Gerusalemme. Ora, qui l'arca viene custodita, ma quello che più colpisce nella narrazione sono tutte le caratteristiche del viaggio che accompagna l'arca da Kiriat Yearim fino all'ingresso a Gerusalemme. Praticamente questa narrazione che viene riportata al capitolo 6 del secondo libro di Samuele, quindi un altro libro, è praticamente in perfetta sintonia con il brano, un altro brano del Vangelo di Luca, che è il brano della Visitazione. Notiamo quindi che dal punto di vista dei viaggi dell'Arca dell'Alleanza sembrano esserci degli elementi che favoriscono il parallelismo con Maria. Primo elemento di parallelismo è tutto il tormento che caratterizza i racconti dell'infanzia. Sappiamo come Matteo dedichi grande attenzione alla Sacra Famiglia, che è costretta alla fuga prima dalla paura a motivo di Erode con la famosa strage degli innocenti, poi alla fuga quando la Sacra Famiglia è costretta a scendere in Egitto, poi all'esilio, quando tornando dall'Egitto in Giuda c'è Archelao, che è figlio di Erode, a motivo della sua violenza. Maria, Giuseppe e Gesù decidono di orientare il loro cammino verso Nazareth. Ecco, in tutta questa itineranza sembra di ripercorrere per certi aspetti l'itineranza dell'Arca dell'Alleanza, così come era all'inizio del popolo. La cosa più importante però è l'abbinamento, l'associazione che è possibile fare tra l'ingresso dell'Arca dell'Alleanza nel Tempio di Gerusalemme e l'ingresso di Maria nella casa di Elisabetta e Zaccaria. Allora, vi dicevo che il brano di riferimento dell'Antico Testamento è 2 Samuele 6. Ora, proviamo a leggerlo insieme, mostrando come di volta in volta ci siano tutti degli elementi che permettono l'associazione con il brano della Visitazione. Leggiamo il testo. Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, in numero 330.000. Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda per far salire di là l'arca di Dio, sulla quale si proclama il nome del Signore degli eserciti, che siede sui cherubini. E qua notiamo già un primo elemento che permette di associare il viaggio dell'arca e la Visitazione di Maria. Il primo elemento di consonanza è la regione. Entrambi gli episodi sono collocati nella regione montuosa di Giuda. Continuiamo con il racconto. Posero l'arca di Dio su un carro nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzzà e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Mentre conducevano il carro con l'arca di Dio dalla casa di Abinadab, che stava sul colle, Achio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con tutte le forze, con canti, con cetre, arpi, tamburelli, sistri e cembali. L'elemento qua che viene sottolineato e che permette di cogliere un'altra assonanza tra i due viaggi è l'elemento della danza. Danza Davide con tutte le sue forze, danza Giovanni Battista nel grembo di Elisabetta nel momento in cui arriva Maria. Tra l'altro, Giovanni Battista sarà il precursore, colui che prepara l'arrivo di Cristo. Quindi questo danzare di Giovanni Battista è proprio come il danzare di Davide davanti all'arca. E entrambi poi avranno degli elementi che susciteranno scandalo per il loro modo di danzare, no? Perché è una danza la loro che rivela e copre una certa nudità, la nudità della loro persona, sia per Giovanni Battista e sia per Davide, ed è una danza che mette in qualche modo in difficoltà, suscita degli interrogativi in coloro che osservano, vedono, partecipano. Quindi altro elemento che collega i due brani. Giunti all'aia di Nacon, Uzzà stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne perché i buoi vacillavano. L'ira del Signore si accese contro Uzzà. Dio lo percosse per la sua negligenza ed egli morì sul posto presso l'arca di Dio. Davide si rattristò per il fatto che il Signore aveva aperto una breccia contro Uzzà. Quel luogo fu chiamato Perez Uzzà fino ad oggi. Davide, in quel giorno, ebbe timore del Signore e disse: Come potrà venire da me l'arca del Signore? Ora, di fronte a questo episodio che dice tutto il mistero che racchiude l'arca, per cui l'arca non può essere trattata come un oggetto qualunque, ma non può nemmeno essere toccata, l'intangibilità del mistero. Uno la può toccare solo indirettamente. Davide si spaventa e dice questa frase: che come potrà venire da me l'arca del Signore? Una frase che torna e viene posta sulle labbra di Elisabetta. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Notate come c'è piena assonanza tra le due frasi. Entrambe dicono la coscienza del mistero che sta per avvicinarsi. Elisabetta lo recepisce in Maria, Davide lo recepisce nell'arca. Il racconto continua dicendo: Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece dirottare in casa di Obed-Edom di Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi nella casa di Obed-Edom di Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Altro elemento di assonanza: l'arca rimane nella casa di Obed-Edom 3 mesi, come Maria rimane nella casa di Elisabetta 3 mesi. E l'arca nella casa di Obed-Edom è motivo di benedizione, come Maria, presente nella casa di Elisabetta e Zaccaria, è motivo di benedizione, perché da un lato aiuta Elisabetta a uscire dalla sua vergogna e dal suo nascondimento, e dall'altro, prima di venire via, parteciperà allo scioglimento delle labbra di Zaccaria che esploderà nel famoso canto di benedizione a Dio. Quindi notate questo terzo elemento molto forte, molto visibile, che permette di associare un altro elemento dell'arca dell'alleanza, che è quello del viaggio, ma un viaggio che è sottolineato soprattutto nel racconto della visitazione e nel trasferimento dell'arca da parte di Davide da Kiriat Jearim, quindi dalla casa di Abinadab, verso Gerusalemme. Un viaggio che però non è automatico, che richiederà delle soste intermedie. Anche qua c'è tutta un'evocazione del mistero pasquale precedente. Lasciamo allora un altro spezzone musicale, un'altra sosta, in modo che voi lettori possiate andare a ripercorrere queste due pagine. La pagina di 2 Samuele 6, dove si racconta il trasporto dell'arca dell'alleanza, e il brano dell'Annunciazione al capitolo primo, il brano della Visitazione al capitolo primo del Vangelo di Luca, per cogliere quindi questo terzo elemento che unisce l'arca dell'alleanza alla figura di Maria. Lasciamo un breve stacco musicale. E siamo arrivati al quarto indizio. Eccoci dopo, stiamo ripercorrendo tutti gli elementi che permettono di leggere in parallelo l'immagine dell'arca dell'alleanza con tutte le immagini mariane che noi troviamo nel Nuovo Testamento. Quindi abbiamo visto l'arca e Maria, luogo del Dio con noi. Abbiamo visto l'arca e Maria, luogo in cui sorse, in cui la nube del Signore avvolge il mistero, abbiamo visto l'Arca e Maria come due luoghi di un Dio in cammino con il suo popolo, con tutta una serie di elementi. Arriviamo adesso al quarto elemento. Il quarto elemento è legato un pochino alla descrizione dell'Arca dell'Alleanza. Noi sappiamo che l'Arca dell'Alleanza era caratterizzata da un coperchio, era un'urna sopra la quale c'era un coperchio che aveva un ruolo molto importante, che poi vedremo, e su questo coperchio erano rappresentati due cherubini. Il testo di Esodo 25 che descrive nel dettaglio come era costruito il coperchio dell'Arca dell'Alleanza, scrive così, da queste indicazioni a Mosè: farai due cherubini d'oro, li farai lavorati al martello sulle due estremità del coperchio, fa un cherubino ad un'estremità e un cherubino all'altra estremità. Farete i cherubini tutti di un pezzo con il coperchio alle sue due estremità. I due cherubini avranno le due ali tese sopra, ricoprendola, e i loro volti saranno rivolti l'uni verso l'altro e verso il coperchio, e porrà il coperchio sulla parte superiore dell'arca e collocherà nell'arca la testimonianza e collocherai nell'arca la testimonianza che ti darò. Questa narrazione viene presentata al capitolo 25 del libro dell'Esodo, i versetti da 18 a 21. Quindi, ma non è l'unico passaggio, ce ne sono altri dove l'autore sacro si sofferma sulla figura dei cherubini. Questa simbologia dei cherubini è interessante perché sottolinea un elemento particolare che caratterizza questo luogo sacro. Secondo la tradizione ebraica, i volti di questi due cherubini erano uno maschile e l'altro femminile, ad indicare la fusione degli opposti. Alcuni rimandano addirittura al cosiddetto matrimonio mistico. E nel ricomporsi dell'unità primaria tra i poli opposti, cioè tra il maschile e il femminile, alcuni vedevano nel luogo dei cherubini dove si posava la presenza di Dio la coppia originaria, cioè la coppia di Adamo ed Eva, in una sorta di annuncio futuro. I cherubini erano coloro che assicuravano alla storia della salvezza un'origine e un compimento nell'ideale della creazione narrato da Genesi 1-2. E grazie alle ali dei cherubini che si toccavano sopra il coperchio, si perpetua l'invito a tenere fisso lo sguardo non solo per terra, ma sul luogo della presenza, su chi lo rappresenta. Cioè, le ali dei cherubini di ciascun cherubino erano due. Due coprivano i cherubini, gli altri due ali erano puntate verso il cielo. Quasi a dire che la presenza di Dio non era racchiusa nel coperchio, ma invitava il credente a tenere lo sguardo aperto al mistero. Ecco, non sono pochi quelli che hanno visto in questa immagine una anticipazione di quella che sarebbe stata la scena del Golgota. Nella menzione giovannea di Maria, noi troviamo Maria ai piedi della croce, insieme a il discepolo che Gesù amava, e in mezzo la croce, che è il luogo per eccellenza della presenza di Dio. Quindi un volto maschile e uno femminile, entrambi puntati con lo sguardo in alto, dove sul luogo della croce dove è appeso il Cristo crocifisso, dal cui costato sappiamo che uscirà sangue ed acqua, che erano i due elementi di cui il coperchio dell'Arca dell'Alleanza, nel giorno di Yom Kippur, il giorno sacro per eccellenza al popolo di Israele, veniva sperso col sangue e con l'acqua, proprio per indicare la fusione tra Dio e il popolo, la remissione dei peccati da parte di Dio nei confronti del popolo e la riconfigurazione dell'alleanza, la riconsegna del popolo nelle mani di Dio dall'altro lato. Quindi quel luogo, il luogo dei cherubini che si guardano, diventa il luogo della presenza di Dio. E sembra che nel quarto Vangelo, la scena finale, teniamo presente, il quarto Vangelo è l'unico Vangelo che riporta ai piedi della croce la madre e il discepolo che gli amava. Ecco, questa coppia che noi troviamo ai piedi della croce, con un ruolo molto particolare, sembra quasi richiamare un altro elemento che caratterizza l'immagine per eccellenza della presenza di Dio nel popolo di Israele. Quindi tra Esodo 25, 18, 21 e Giovanni 19, che è il capitolo dove viene presentato la consegna di Maria al discepolo amato e del discepolo amato a Maria, diventa un ulteriore segno di vicinanza tra il simbolo e la sua rinarrazione nella figura di Maria. Ecco, lasciamo anche in questo caso un breve stacco musicale in modo da poter cogliere l'assonanza tra questi due elementi, tra il simbolo dell'Arca dell'Alleanza con i due cherubini e il mistero del Golgota, e cui piedi, i piedi della croce, troviamo le due figure di Maria, la madre di Gesù, e del discepolo che egli amava. Arriviamo ora al quinto indizio di questa assonanza tra l'Arca dell'Alleanza e Maria. Il quinto indizio è associato a quello che abbiamo visto prima, cioè l'Arca dell'Alleanza era caratterizzata non solo dai cherubini, ma un ruolo molto importante lo aveva il cosiddetto propiziatorio. Che cos'era il propiziatorio? Il propiziatorio era il coperchio dell'Arca dell'Alleanza. Essendo il coperchio dell'Arca dell'Alleanza, sul quale erano costruiti i due cherubini, il luogo in cui si posava lo sgabello dei piedi del Signore, il luogo in cui si manifestava la sua presenza, questo luogo aveva un ruolo molto particolare in una delle solennità che prima abbiamo evidenziato, una delle solennità principali dell'Israele di allora e anche di oggi, cioè il giorno di Yom Kippur. Nel giorno di Yom Kippur, attorno al propiziatorio, in greco il coperchio era chiamato ilasterion, che richiama proprio lo strumento di propiziazione, intorno al propiziatorio avvenivano almeno tre riti. Questi tre riti sono tutti narrati al capitolo 16 del libro del Levitico, che è un libro che racconta lo svolgimento delle celebrazioni più importanti del popolo di Israele. Ora, quali sono i riti che si compivano attorno all'ilasterion, cioè attorno al coperchio dell'Arca dell'Alleanza? Li possiamo sintetizzare in tre momenti, ma leggiamo il testo in modo che il testo ci aiuta ad avere una visione un pochino più corretta di quello che vogliamo comunicare. Il Signore, siamo al capitolo 16 del libro del Levitico, il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre si presentavano davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: parla ad Aronne tuo fratello. Non entri in qualunque tempo nel santuario oltre il velo, davanti al propiziatorio che sta sull'arca. Notate, il propiziatorio sta sull'arca, il coperchio, dove c'erano poi i due cherubini. Non entri in qualunque tempo oltre il velo, affinché non muoia. Aronne entrerà nel santuario in questo modo, con un giovenco per il sacrificio per il peccato e un ariete per l'olocausto. Si metterà la tunica sacra di lino, indosserà, eccetera, fa tutta la descrizione del modo in cui si deve vestire. Poi dice: sono queste le vesti sacre che indosserà dopo essersi lavato il corpo con l'acqua. Dalla comunità degli israeliti prenderà due capri per il sacrificio per il peccato e un ariete per l'olocausto. Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio per sé e per la sua casa. Quindi Prima di tutto il sacerdote compie il rito di espiazione per i propri peccati e quelli della sua famiglia, quindi sacrifica il giovenco e con il suo sangue asperge per 7 volte il propiziatorio. Versetto 11. Aaron ne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio per sé e per la sua casa e scannerà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato. Poi prenderà l'incensiere pieno di brace, tolta dall'altare davanti al Signore, e 2 manciate di incenso aromatico fine. Porterà ogni cosa oltre il velo c'era l'arca dell'alleanza, metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore e la nube di incenso coprirà il propiziatorio che sta sulla testimonianza, affinché non muoia. Poi prenderà un po' del sangue del giovenco e ne aspergerà con il dito il propiziatorio dal lato orientale e farà 7 volte l'aspersione del sangue con il dito davanti al propiziatorio. Quindi notate, il sangue cade sul coperchio dell'arca e purifica il sacerdote e la sua famiglia dei suoi peccati. Secondo rito. Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato, quello per il popolo. Il secondo rito riguarda il popolo e ne porterà il sangue oltre il velo. Farà con questo sangue quello che ha fatto col sangue del giovenco. Lo aspergerà sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Ancora una volta, secondo sacrificio, col sangue viene coperto il coperchio dell'arca dell'alleanza e quello diventa il segno che l'impurità degli israeliti e le loro ribellioni, insieme a tutti i loro peccati, sono annullati. Quindi ci sono praticamente 2 riti, entrambi volti a purificare dal peccato prima il sacerdote e la sua famiglia, poi tutto il popolo. A questo punto c'è il terzo rito. Il terzo rito riguarda l'ultimo capro, che è riservato invece ad Azazel. Azazel sarebbe il demonio, è il nome che evoca tutti i demoni del deserto. Cosa deve fare il sacerdote? Gli deve imporre le mani, confessare le colpe del popolo, riversarle sul capo dell'animale che viene affidato a una persona che lo conduce nel deserto. Ovviamente qui il deserto nell'immaginario popolare è l'immagine del nulla e della morte. E là, dove si recherà questo capro, insieme al capro morirà simbolicamente anche il peccato di Israele. Quindi è tutto un rito dove praticamente con gli animali sgozzati viene riversato sul coperchio il sangue, viene caricato il peccato sul capro per allontanarlo via, per ristabilire l'unione tra Dio e il popolo. Nella lettera ai Romani, quando Paolo parlerà di Gesù, nel cuore di questa lettera ai Romani, vale a dire nei versetti da 21 a 26, Paolo utilizzerà questa immagine, l'immagine del propiziatorio, per applicarla a Gesù. Dirà che noi siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione. Strumento di espiazione, viene utilizzato lo stesso termine greco che in Levitico 16 viene applicato al coperchio dell'arca dell'alleanza, quindi è Lui che Dio ha prestabilito apertamente come propiziatorio per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati. Allora, cosa succede? Succede che in Cristo avviene quello che il rito di Yom Kippur faceva nel popolo, per il popolo di Israele. Ed è interessante che al tempo stesso Gesù è il sacerdote che guida il sacrificio, è la vittima dal cui sangue viene asperso il propiziatorio, ma è addirittura anche il capro su cui viene caricato il peso del popolo e cacciato fuori dalla città, tanto vero che muore nel luogo è maledetto fuori dalle mura di Gerusalemme. Quindi in Gesù tutto il rituale di Yom Kippur viene a condensarsi. Lui è l'altare, la vittima e il sacrificio. È colui che è un tutt'uno con il sacerdote, con Dio e con il popolo. È colui che diventa il luogo della unione, del ristabilimento dell'unione tra Dio e il popolo con il superamento del peccato. È veramente il coperchio dell'arca dell'alleanza. È veramente quell'ilasterion, quel propiziatorio che compie i riti di Yom Kippur. Un altro elemento quindi che conferma come Maria sia arca dell'alleanza, perché Maria ha portato questo Cristo al mondo, ha portato questo Signore che compie il suo disegno di salvezza sul Golgota tra i due cherubini proprio allo stesso modo. E Paolo nella lettera ai Romani, che è per eccellenza la lettera teologica che porta a sviluppo quello che lui dice nella lettera ai Galati, non fa altro che riprendere tutta questa simbologia. E allora troviamo conferma anche di questo quinto indizio, che associa l'arca dell'alleanza a Maria come colei che è discepola del Signore e accompagna questo Signore tenendolo vivo all'interno della comunità cristiana. Lasciamo un altro breve stacco musicale per poi orientarci verso gli ultimi due indizi che uniscono l'arca dell'alleanza alla figura di Maria. Nel frattempo vi invito a rileggere con calma il capitolo 16 del libro del Levitico e i versetti da 21 a 26 di Romani 3, che sono proprio gli elementi che noi possiamo mettere in collegamento l'uno con l'altro. Eccoci di nuovo, cari ascoltatori, in questo percorso in cui stiamo cercando proprio di cogliere quegli elementi che associano la figura di Maria, madre della Chiesa, che oggi celebriamo, con un'immagine che mi sembra possa fare da filo rosso tra tutte le menzioni mariane del Nuovo Testamento, cioè l'immagine antico testamentaria dell'Arca dell'Alleanza. Siamo arrivati al sesto elemento di unione tra le due immagini. E il sesto elemento, dopo che abbiamo visto la costruzione dell'arca, la nube che l'avvolgeva, i cherubini, i viaggi e anche il coperchio dell'arca dell'alleanza, o il cosiddetto propiziatorio, adesso proviamo a entrare nel contenuto dell'arca dell'alleanza. Ecco, noi sappiamo che la storia dell'arca dell'alleanza nel popolo di Israele termina abbastanza in fretta, con l'esilio a Babilonia, Nabucodonosor entra nella città di Gerusalemme, distrugge il Tempio e sembra portarsi via l'Arca dell'Alleanza. Alcune tradizioni vogliono che quest'arca sia tutt'oggi custodita in un santuario blindato in Etiopia, presso la comunità etiope ebraica, presso la comunità ebraica degli Etiopi. Ecco, tra l'altro anche qua c'è tutta una lunga tradizione che sarebbe interessante vedere, però non è questo il momento adatto per farlo. Nell'Arca dell'Alleanza cosa c'era? Nell'Arca dell'Alleanza erano custoditi, secondo il racconto biblico, e questo viene riportato poi nella lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei dice: nell'arca dell'alleanza era contenuto prima di tutto la verga di Aronne che era fiorita, un'urna d'oro contenente la manna e le tavole dell'alleanza. E la lettera agli Ebrei al capitolo 9, i versetti 3 e 4 menziona i tre elementi che sono contenuti nell'arca dell'alleanza. Quindi una porzione di manna, il bastone di Aronne, lo stesso bastone che operò miracoli prima del cammino dall'Egitto verso la terra promessa, e poi le 10 parole, le tavole scritte con il dito di Dio. Ecco, al di là di quello che l'Arca dell'Alleanza conteneva, ciò che era importante era il mistero che l'avvolgeva e che in questi tre segnali, la manna, la verga fiorita e le dieci parole, veniva racchiuso, cioè questi tre elementi custoditi nell'arca erano il segno della presenza di Dio in mezzo al popolo, di come questa presenza si era resa visibile. Ora, proviamo un attimo a immaginare i momenti di autorivelazione di Gesù, così come sono presentati nel Vangelo di Giovanni. I momenti in cui Gesù si autorivela ruotano tutti attorno a questi tre elementi. Gesù si manifesta come pane della vita, ad esempio. L'intero capitolo 6 del Vangelo di Giovanni ruota attorno a questa immagine. Gesù, pane della vita. E anche negli altri Vangeli il tema eucaristico è comunque un elemento fondamentale. Ora questo richiama la manna custodita nell'Arca dell'Alleanza. Secondo, il bastone. Il bastone richiama un'altra dimensione di Gesù. Gesù come pastore. Io sono il buon pastore. Pensiamo a tutto il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, che è dedicato proprio a questa rivelazione del Signore. Gesù, che è colui che si fa nuova guida del popolo, guidandolo verso nuovi pascoli, verso una nuova logica. Pensiamo anche a tutto il discepolato, così come viene narrato anche nei Vangeli sinottici. Terzo elemento, le tavole, le parole, le dieci parole, Gesù che si definisce come maestro, non solo in Giovanni 14, ma alla luce anche dei grandi insegnamenti. Non dimentichiamo che il quarto Vangelo dedica dal capitolo 13 al capitolo 17 tutta una sezione dedicata all'eredità del maestro di Galilea, dove lui stesso si definisce non solo rabbi, ma si definisce addirittura via, verità e vita, cioè colui che accompagna il suo popolo e quindi in questo si manifesta come il maestro. Pensiamo alla stessa narrazione che troviamo ad esempio nel Vangelo di Matteo, dove tutto il Vangelo è costruito attorno a tre grandi discorsi a cinque grandi discorsi tenuti da Gesù durante il ministero pubblico che fanno del suo insegnamento la nuova Torah, il nuovo Pentateuco, i nuovi cinque libri di riferimento dell'identità dei suoi. Detto in altre parole, i tre simboli di cui l'arca è custode vengono reincarnati in modo particolare nelle rivelazioni del Signore, come pane, come maestro, come pastore, e li possiamo trovare benissimo sintetizzati in quell'unica frase dove Gesù dice in Giovanni 14,6: io sono la vita, il pane, quindi la manna nel deserto, la via, il bastone fiorito, la verità, le dieci parole. Via, verità e vita raccolta attorno a questo triplice simbolo custodito nell'arca dell'alleanza. E Maria chi è? Maria è l'arca che ci dona questo Gesù, dalla nascita alla fine della sua vita nella comunità, Maria è colei che ci consegna questo Signore. Ora, tutta questa simbologia non è estranea ai padri della Chiesa, pensate ad esempio che Sant'Ambrogio già aveva notato tutti questi aspetti. In un suo commento al titolo proprio di Arca dell'Alleanza, Sant'Ambrogio dice così: l'arca conteneva le tavole della legge, Maria ha dato ricetto nel suo seno all'erede del testamento, l'arca portava la legge, Maria portava il Vangelo, nell'arca si faceva intendere la voce di Dio, Maria ci ha dato le parole e il verbo di Dio, l'arca splendeva d'oro purissimo, Maria splendeva all'interno e all'esterno dello splendore della verginità. Ma l'oro che ornava l'arca era cavato dalle viscere della terra, mentre l'oro di cui splendeva Maria era tutto cavato dalle miniere del cielo. Con ragione perciò la Chiesa invoca Maria sotto il titolo di Arca dell'Alleanza. E allora notiamo che anche in questi elementi, se noi consideriamo la manna, la verga fiorita, le 10 parole, Maria è colei che ci consegna Gesù come via, verità e vita e attorno a lui costruisce la Chiesa. E quindi troviamo davvero un ulteriore elemento, siamo al sesto, che permette di associare l'arca dell'alleanza alla figura di Maria, madre della Chiesa. Ecco, vi lascio ancora un breve stacco musicale in cui vi invito a riprendere Ebrei 9, versetti 3 e 4, prima di cogliere l'ultima immagine, che anche questa è molto significativa e fa da sintesi a tutto il percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Un breve stacco musicale. Eccoci di nuovo, cari ascoltatori, attorno ora all'ultimo elemento che ci permette di associare l'Arca dell'Alleanza a Maria, Madre della Chiesa, secondo il titolo che oggi stiamo celebrando. L'ultimo aspetto ha a che vedere con l'immagine di Maria che noi troviamo negli Atti degli Apostoli. Sappiamo che questa è l'ultima figura mariana della Scrittura. Sia perché la citazione di Paolo nella lettera ai Galati ha più a che vedere con il momento dell'incarnazione, perché il figlio nato da donna è chiaro ha più a che vedere con i racconti delle origini di Gesù, mentre la donna di cui si parla nell'Apocalisse solo successivamente è stata riletta come chiave della figura di Maria, ma rappresenta il popolo di Israele o la comunità cristiana. Maria invece in modo esplicito, l'ultima volta che la troviamo nel Nuovo Testamento, la troviamo menzionata al capitolo primo degli Atti degli Apostoli, in una sorta di fotografia della prima comunità. È un brano molto significativo perché rappresenta la comunità prima della discesa dello Spirito Santo. Tra l'altro ci sono due cose da dire molto interessanti, no? Nel Nuovo Testamento, in tutto l'itinerario che vivono i discepoli, solo due volte i discepoli vengono lasciati apparentemente soli. La prima volta è nei tre giorni che scorrono tra la morte e la risurrezione di Gesù. E la seconda volta è nei 10 giorni che scorrono tra l'ascensione di Gesù al cielo e il dono dello Spirito Santo, che è il Cristo vivo nel cuore dei credenti. Ecco, in queste pause, 3 giorni prima, 10 giorni dopo, sembra che i discepoli siano soli, ma in ogni volta Gesù non se ne va senza prima affidare i discepoli alla madre. E lo notiamo nel Vangelo di Giovanni, il discepolo amato viene affidato a Maria e con lui tutti gli apostoli, e così negli Atti degli Apostoli, quando i discepoli sono invitati a tornare a Gerusalemme, chi troviamo nella sala alta? Troviamo i 12 che erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Vale a dire, la comunità cristiana nelle sue diverse rappresentanze, quindi ci sono gli 11, i fratelli di Gesù e le donne, è tenuta vicina, è rappresentata in coesione attorno a Maria. Maria è anche qui una sorta di arca dell'alleanza che tiene unita la comunità pur nelle sue differenze. Sembra infatti che questi tre gruppi, gli 11, i fratelli e le donne, erano un pochino le tre espressioni della comunità cristiana che all'inizio non andavano molto d'amore d'accordo, però Maria è l'elemento che fa coesione, che fa comunione di questi elementi raccogliendoli attorno a suo figlio. E in questo si ripropone l'immagine dell'arca dell'alleanza. Che cos'era l'arca dell'alleanza in mezzo al popolo? Se non quell'elemento che costituiva il polo di unità tra le 12 tribù di Israele, perché era il luogo della presenza di Dio e quindi riusciva a tessere unità anche gli elementi più diversi. Qual è stata la grande strategia di Davide diversamente da quello che aveva fatto Saul in precedenza, era quella di portare l'arca dell'alleanza in una città che non apparteneva a nessuna delle 12 tribù, per far sì che il luogo dove era custodito l'arca dell'alleanza diventasse il polo di coesione di tribù così diverse tra di loro. E attorno all'arca dell'alleanza Davide riuscì a costruire l'unità del regno delle 12 tribù, del regno di Israele e di Giuda, che poi con Salomone si spezzerà in due con i figli di Salomone. Però Davide riesce a tessere unità attorno al segno dell'arca. Così negli Atti degli Apostoli Maria diventa il luogo attorno al quale, prima della discesa dello Spirito Santo, la comunità, pur nelle sue diversità, è tenuta unita. E allora, cari ascoltatori, io spero che in questo nostro percorso attorno all'immagine dell'Arca dell'Alleanza ciascuno abbia potuto cogliere un pochino come la scrittura davvero illumina la scrittura e come i diversi passi mariani che sono sparsi in diversi momenti della narrazione del Nuovo Testamento possano davvero essere ricollegati attraverso un filo rosso, che è un filo molto significativo, che utilizza un'icona biblica, ce ne sono altre, no? Però questa icona biblica mi sembra particolarmente evocativa e soprattutto illuminante per la festa che oggi stiamo celebrando, quella di Maria, Madre della Chiesa. E concludo invocando su ciascuno di voi la benedizione del Signore e soprattutto augurando a voi, a noi, augurandoci vicendevolmente di cogliere sempre in Maria quel segno forte della presenza di Dio, di cogliere in lei quella madre che davvero ci aiuta a essere disponibili all'azione dello Spirito che plasma il Cristo in noi e tesse unità tra di noi nonostante le differenze. In questo Maria è davvero madre della Chiesa, madre e regina degli Apostoli. A tutti voi, cari ascoltatori, l'augurio di una buona serata e l'augurio di tante grazie dal cielo. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.